La nostra varietà in jazz continua a essere variopinta e queste le note di un fisarmonicista, Richard Galliano, da Life Communication per la label francese Label Bleu, che ritroviamo come tanti altri artisti, Michel Portal potrei citare, e anche dall'Italia Stefano Bollani ha prodotto per questa prestigiosa label, variegata anch'essa com'è variegato un festival di cui non vi parleremo in forma estesa perché ci vogliono almeno 5 puntate di jazz solo per numerare i musicisti. Sì, per commentare, esatto, solo per dire i concerti. Quindi... Sai perché? A guardare dalla finestra non si direbbe mai primavera, e con la sta vicina, e con la vicinanza della primavera arriva Crossroad Jazz, il jazz in Emilia Romagna, quindi ne che abbiamo va da Piacenza da marzo fino a luglio e da Piacenza a Rimini, per cui da Manzanara al Reno, però ha una sede che è Ravenna. E tra pochissimo con Daniele Cecchini daremo una sintesi, a tra poco. Un sacco di fans, soprattutto genere femminile, abbiamo deciso di contattare Daniele Cecchini, oltre che essere una presenza professionale encomiabile. Buongiorno Daniele. Buongiorno, io pensavo che la mia fama di Don Giovanni Romagnolo fosse una cosa privata, ma a quanto pare a questo punto di pubblico dominio. Ha travalicato i limiti. Ha travalicato il Sillaro, pensa, è arrivato anche a Bologna. Ascolta Daniele, come stai innanzitutto? Che lavori sei? Bene, bene, assolutamente. In fase di carica delle batterie per affrontare la primavera di concerti. Sì, che abbiamo appena osservato, che va dal Manzanare al Reno, da Piacenza a Rimini, quindi è estesa. Sì. Adesso ce lo dici, esatto, tutto a memoria il programma. Ah, esattamente. No, non è più quell'età in cui ci si ricorda tutti i concerti a memoria. Mentre rispetto appunto alla cosa che hai appena osservato, quest'anno davvero Crossroads torna, come già in anni passati, ma non è successo sempre, a coprire esattamente tutto il territorio regionale, quindi dal profondo sud della mia Rimini a Piacenza, quindi tutto l'asse della Via Emilia, e poi lo spunto verso Ferrara. Ma Daniele, come funziona l'organizzazione? Quanto è compito dell'organizzazione centrale? Quanto invece tocca ai vari enti, città locali? Le decisioni artistiche? L'organizzazione centrale è fondamentale ed è il punto in cui tutto nasce, ed è Jeff Network di Ravenna. E andare sul territorio nasce da un'unione di competenze e di risorse, quindi diciamo avendo un budget di finanziamenti pubblici l'organizzazione di Ravenna la distribuisce sul territorio secondo un meccanismo, secondo me, brillante, che è quello dell'accoppiamento dei fondi, il matching funds, dicono gli inglesi. Quindi, avendo uno stanziamento, un finanziamento per fare concerti, io posso avere 10, con 10 faccio un concerto di un certo livello. Noi invece ci muoviamo sul territorio andando in posti in cui un ente mette qualcosa di suo. Quindi facciamo un 10 più 5, un 10 più 2, un 10 più 10, i fondi aumentano, il festival può proporre prodotti artistici di maggior qualità. Quindi diciamo tutti i territori, i 20 più comuni in cui noi ci spostiamo quest'anno, sono tutti posti in cui il più delle volte un ente pubblico locale, che può essere il comune, o anche un altro operatore organizzatore di concerti del territorio, un jazz club, un altro festival, mettono qualcosa di loro assieme ai nostri fondi e creiamo un super festival tutti assieme. No, te l'ho chiesto perché c'è tantissimi concerti, come sì, sempre. Tantissimi, però ecco, diciamo, questo è il concetto di come nasce a livello economico. La parte creativa, artistica, la selezione del cartellone è al 90% centralizzata sulla direzione artistica di Sandra Costantini, appunto dalla base. Una figura più che storica, la Sandra, sì, certo. Che sì. Salutiamo, tra l'altro. Intanto, allora, incentrato a Ravenna, ma esteso ovunque, fa parte della fondazione Jazz Emilia Romagna, insieme al Bologna Jazz Festival, al Jazz Club di Ferrara il Torrione, troviamo Crossroad. E oltretutto, parte ufficialmente, leggo, 3 marzo, ma quello che voglio sottolineare è il quarto di secolo, Daniele. Hai già 25 sì. anni, pensa. Sì, esattamente. Un quarto di secolo detto così è incredibile. No, soprattutto ricordo il primo Crossroads, anno 2000, io lo ricordo da spettatore pagante, oltretutto, all'epoca. Hai fatto perché ero ragazzino. Sì, beh, bellissimo, cioè passare dall'essere quello che paga per andare a vedere un festival a organizzarlo direttamente. E nel 2000 Crossroads era già col concetto di adesso, ma erano solo 4 città. Tu pensa quanto è cresciuto nel corso del tempo. Sì, esteso, veramente. Intanto ci sono, prima dello stacco musicale, ci puoi dire qualche nuova piazza per Crossroads? Sì, allora, quest'anno abbiamo una new entry geografica che è Sassuolo, perché ogni anno c'è uno o due paesi che entrano, uno o due sì. che escono. Quest'anno la nuova conquista è Sassuolo, che entra prepotentemente nella dinamica del festival, perché avrà ben 3 concerti, tutti in contiguità cronologica, e sono tutti concerti di fascia altissima, di serie A, perché avremo Paolo Fresu con Omar Sosa, wow. Rico Rava col quintetto Fearless Five, e sarà Jane Morris col quartetto d'archi, il Soli String Quartet. Quindi sono 3 concerti di fascia altissima. Tant'è che con un programma del genere su Sassuolo si è praticamente dato vita a quello che sarà un festival nel festival, battezzato in onore appunto del Teatro Carani, che lo ospita, e della città che partecipa all'organizzazione, come Sassuolo Jazz Festival, prima edizione. E questo è un ritorno. Io ricordo che a Sassuolo, tra l'altro, in una villa vidi Bad Plus, con adesso accompagnati da Mark Turner, mi pare, insomma, una formazione veramente molto pregevole, ed ha una, è una sede di ritorno, però che diventa valore aggiunto per questo già esteso, sì, cartellone. Per noi poi è proprio chiaramente un ritorno del jazz a Sassuolo, mentre per noi è proprio una primissima volta, perché a volte recuperiamo città, sì, che vanno, vengono, escono da un anno all'altro, invece Sassuolo per il festival è proprio una novità assoluta. Poi puoi dire anche, ti ricordi di qualche altro paese? Io ho la passione della geografia, c'è qualche, sì. Ti ricordi, cioè, hai qualche altra piazza, Daniele? Sì, allora le nostre piazze, chiaramente dopo c'è Ravenna, che diventerà un discorso a sé, magari ne parleremo prossimamente con Ravenna, sì, Jazz a maggio. Sì, a maggio. Un'altra piazza fortissima, altamente caratterizzante, è Correggio. Giusto, ma Correggio è quasi un altro festival a parte in qualche anche modo. Correggio anche lì ha per quantità e per concentrazione tutta contigua delle date, l'aspetto appunto del festival, inserito nel festival, anche lì chiaramente c'è il brand Correggio Jazz, ma come dire, che a volte crea anche confusione, cioè ma è un festival oppure l'altro? Il festival è sempre Crossroads, cioè, dopo i micro festival locali sono delle, come dire, per fare delle chiarezze, dare un brand locale, chiaramente comunque tutta una cosa creata da Festival Crossroads. Quello di Correggio è anche da un punto di vista, mi pongo come spettatore pagante, come una volta, è un'esperienza meravigliosa. In primavera, si spera col bel tempo, in una città adorabile, bellissima, uno dei teatri di quelli proprio classici ottocenteschi, stile Teatro dell'Opera, di cui il percorso della Via Emilia abbonda, ma quello di Correggio è davvero una meraviglia. Con questa decina, credo 11 addirittura, concerti quest'anno. Però, con dei nomi da sì, importanti, da certo, sì, importanti. Magari qualche, sì, nome lo faremo poi nella seconda parte di conversazione. Sì. Adesso andiamo in viaggio. Hai citato Paolo Fresu e qui lo troviamo in questa interpretazione per Blue Note, il brano appunto In Viaggio. Tu non partire, aspetta un attimo, che torniamo in diretta, sì, Daniele. A tra poco. Fresu sarà con Omar Sosa a Sassuolo, Daniele, me lo confermi, ho ascoltato. Sì, esatto, sì. Che incontro molto interessante, pianoforte e la tromba di Paolo Fresu. Esatto, saranno tra l'altro appunto il 19 di marzo con questo progetto di Cat Food dedicato al cibo, quindi con oltre a loro due che suonano ci saranno degli effetti, delle registrazioni, dei loop realizzati nei ristoranti, immagino quelli dove mangiano in giro per il mondo durante le tournée, dove hanno campionato i suoni di cucina. È impagabile Fresu. Fresu grande, ogni tema riesce a tradurlo in musica. Ma la cosa bella di Crossroads è che ha nomi più che conosciuti, Bollani, Fresu, no? Bosso, sì. Però sono anche altri personaggi. Come per esempio vedo a Solarolo il 14 marzo, Javier Scirotto, conosciutissimo, certo, argentino, trapiantato a Roma, ma col grande fisarmonicista Vince Abbracciante, che in pochi conoscono, ma che è un musicista eccezionale. Quindi, sì, tra l'altro è un concerto che noi amiamo talmente tanto che abbiamo già riproposto 2 o 3 volte, quindi proprio sì, sono quelle che bene. Del resto facendo più di 60 concerti, dire, hai il piacere e il dovere di spaziare, quindi fai il grande nome, fai il nome medio, fai tante cose, diciamo, meno blockbuster, che possono essere di tanti concetti diversi, cioè ci può essere il giovanissimo che va chiaramente spinto, sostenuto, introdotto nel mondo professionale, ma ci sono anche tante figure di musicisti ormai adulti con una lunga carriera alle spalle, magari poco noti, che vanno comunque proposti, perché la musica è sempre di altissimo livello, come il caso bene di Vanessa Bracciante. Ascolta, prima di salutare citiamo anche l'incontro per Jazzer con il Torrione, sapete, la prima parte del Torrione con Bologna Jazz Festival nelle intersezioni, nella seconda parte in primavera invece con Crossroads Jazz e altro in Emilia Romagna. Ci saranno i due incontri anche per quest'anno? Sì, avremo quest'anno due concerti ferraresi, uno è con Maria Pia De Vito, sì, il 30 marzo, e l'altro a memoria direi Marco Planda il 16 marzo, quindi però, siamo proprio ai primi passi del festival. Sì, e ci avviciniamo anche a Bologna? Sì, allora Bologna, avremo un proprio Bologna città alla Camera, dove da alcuni anni facciamo le nostre serate bolognesi, e poi avremo l'Interland, quindi la, diciamo, sì, la provincia. Sì, la provincia, dove avremo il classico Castel San Pietro Terme con Cassero Jazz, avremo che anche quello sono molto attivi, diciamo. Sì, esatto, sì, sì, Cassero che ha questa, per dire, questa roccaforte del jazz un attimino più sperimentale, più ricercato, con nomi molto particolari. Poi avremo Dossa e avremo Imola, importantissimo. Imola sono con Richard Galliano, col Neuro Tango Trio, quindi parliamo di concerti importantissimi, quelli della Piazza Imolese, nella dinamica del festival. Bene, intanto guardo, ho messo in sottofondo Richard Galliano che ci porterà alla conclusione. Noi ti ringraziamo tantissimo, Daniele, per questa anticipazione, e poi però insomma diamo anche qualche indicazione online per avere il programma. Ah sì, certo, perché il programma io l'ho citato proprio così. Sì. Sì, perché è troppo grande per poterne parlare, mentre lo si legge tutto per intero sul sito www.crossroads-it.org. Bene, io ti rinnovo i ringraziamenti e poi ci incontreremo in uno di questi concerti. Intanto buon relax, da quel che grazie. Ho capito, stai ricaricando le batterie. Sì, sì, sì, perché poi dopo evita, dopo evita nomade. Esatto. Ti abbiamo interrotto per impiegarti come co-conduttore. Ottimo lavoro. Grazie. Ciao, grazie di tutto, un abbraccio. Ciao. Un saluto a tutti ciao. Gli ascoltatori. Ciao. Al termine 12:24 minuti, bella puntata ricca per quanto riguarda il Jazz Live, e quindi vi diamo appuntamento intanto a venerdì prossimo, perché vi diamo un'anticipazione: Paradiso Jazz in diretta con noi, direttore artistico Marco Conti. Vedi come saltelliamo da un festival a quell'altro. Noi ormai siamo state ascoltando il quartetto di Richard Gaglianò, che vede la batteria, per me lo conosco, adesso non voglio, Aldo Romano. Aldo Romano, io sì. Organizzai anche un concerto anni fa. Pensa, da direttore artistico, Alfredo Pasquale. Sì, ma è Massimo Urbani, Rava e Gianfrancesco Nicola che contrabbasso. La generazione alla Montagnola. Buon ascolto, un buon ascolto buon jazz. A tutti voi, ciao, buon weekend, alla prossima puntata venerdì. Ciao da William e Alfredo.